America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La crisi libica si complica. La crisi libica, dicevo, si complica sia sul piano diplomatico che su quello militare. Avete sentito un audio di esplosioni, di scene di una battaglia durissima che si è svolta a Brega, che è uno dei centri nevralgici per il controllo del petrolio, occupata dagli insorti. Ebbene, Gheddafi ha deciso di lanciare un attacco tra ieri e avantieri, un attacco molto pesante perché ha coinvolto di nuovo le forze aeree. Gli insorti hanno resistito, è stata forse la battaglia più dura delle ultime settimane. Hanno vinto gli insorti, le truppe di Gheddafi, i mercenari di Gheddafi si sono ritirati e sono poi fuggiti, ma la situazione resta problematica, perché se da una parte l'insurrezione resiste a Gheddafi, dall'altra non riesce a debellarlo, non riesce a prendere Tripoli ed è esposta soprattutto a questo rischio, a questo pericolo dell'attacco aereo. E questa battaglia, vi ripeto, durissima, ha rimesso in gioco la questione diplomatica. Il segretario al Pentagono Bob Gates ha testimoniato sempre ieri davanti alla Commissione Forze Armate al Senato, affrontando la questione del no-fly zone, di cui abbiamo parlato più volte, se ne è parlato alle Nazioni Unite, sembrava che l'avrebbero introdotta, poi non se n'è fatto nulla. Adesso abbiamo capito perché. Bene, Gates ha spiegato perché per ora non si parla di fly zone, perché fare una fly zone, ha detto ai senatori, comporterebbe immediatamente un coinvolgimento americano dal punto di vista militare, e cioè dovremmo subito partire e distruggere la contraerea del paese nemico, o comunque la contraerea del paese a cui è stata imposta la no-fly zone, e dunque dovremmo intervenire a priori militarmente e non soltanto successivamente. E dunque per ora gli Stati Uniti sono molto prudenti e non vogliono farlo. Perché? E beh, qui interviene la questione diplomatica, perché a quel punto, e questo lo dicevamo in una precedente puntata, un coinvolgimento militare degli Stati Uniti darebbe adito a quelle voci in Medio Oriente che così dicono che dietro questa ribellione ci sia la cospirazione americana. E dunque Barack Obama in persona di questo si è occupato, abbiamo saputo sempre tra ieri e oggi, e ha deciso per ora di guadagnare tempo. Questa dinamica, questo stallo chiaramente è preoccupante. Più la situazione va avanti, più si incancrenisce, più il rischio è quello di una guerra civile, più il rischio di prolungare anche a tempi indefiniti l'offerta di petrolio che giunge dalla Libia. Abbiamo visto ieri le ripercussioni sul fronte economico, e dunque questa questione resta aperta. Di questo noi parliamo con uno dei nostri esperti militari. Ai microfoni di America 24, Gianandrea Gaiani, direttore di analisi e difesa, collaboratore del Sole 24 Ore, uno dei nostri esperti militari. Dunque, buongiorno Gianandrea. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, io ho appena accennato, come hai sentito, di questa incertezza americana sulla no-fly zone, sul rischio che potrebbe esserci nel momento in cui viene introdotta di dover partire subito con un'azione militare. Qual è la tua impressione? Ma l'idea di fare un red light preventivi per rendere poi sicuri i voli dei caccia che dovrebbero mantenere la no-fly zone è un'ipotesi un po' forte, nel senso che in passato la storia ci insegna che le no-fly zone imposte sui cieli dell'Iraq e anche prima e anche sulla Bosnia negli anni 90 prevedevano che gli aeroplani aprissero il fuoco solo qualora da terra vi fossero delle batterie di missili antiaerei che li prendevano di mira. Quindi si può creare una no-fly zone che abbia compiti bellici solo se gli aerei di Gheddafi decollano o se le batterie contraeree li prendono di mira. Però il problema qui è quello di decidere se intervenire militarmente in Libia oppure no, ed è un problema che sta coinvolgendo tutti, la NATO, la UE, gli Stati Uniti, e sembrano forti le resistenze. Anche la Francia ha espresso molte riserve sulla no-fly zone, anche sulla sua efficacia, perché è vero che Gheddafi ha gli aeroplani, ma finora la debole aviazione libica si è rivelata poco influente. Sì, però, ecco, però scusa Gianandrea, c'è una situazione in effetti che a questo punto è molto di stallo, nel senso che l'aviazione libica sarà inefficiente, ma esiste ed è in grado, come è successo a Brega, poi di intervenire e dunque di far danno e di uccidere anche molti degli insorti, i quali combattono ovviamente ad armi in pari. Dal punto di vista militare, dunque, c'è uno stallo, nel senso che gli insorti sono riusciti a resistere a Brega, però non riescono a debellare Gheddafi, non riescono a prendere Tripoli. Dunque, qualche cosa bisogna fare, al di là delle varie prudenze, o no? Sì, io credo che lo stallo sia dovuto al fatto che i ribelli non hanno la forza per arrivare a Tripoli, come Gheddafi sembra non avere la forza per riconquistare la Cirenaica. I ribelli per questo hanno chiesto aiuto internazionale. È improbabile che l'ONU possa approvare una risoluzione che autorizza l'uso della forza. La Cina, la Russia oppongono resistenze. La mia valutazione è che se domani ci potesse essere una controffensiva di Gheddafi che mettesse in pericolo veramente i rivoltosi, anche adombrando un'emergenza umanitaria, che si potrebbe anche verificare nel caso che Gheddafi cercasse di riconquistare i territori perduti, si potrebbe valutare un intervento probabilmente anglo-americano, una coalition of the willing come quella che si è verificata all'inizio delle operazioni in Afghanistan o addirittura nella guerra in Iraq, che potrebbe intervenire sul campo a favore dei ribelli e dare il colpo di... E non un'operazione NATO, visto che la missione NATO, anche ribadita al vertice di Lisbona, poi continua ad allargare il raggio. Rasmussen proprio questa mattina ha dichiarato che la NATO pianifica tutte le operazioni possibili ma non prevede un intervento in Libia. Del resto, tra i partner della NATO non tutti sono favorevoli, non tutti sono d'accordo a un'operazione militare. L'Italia stessa, il ministro Frattini, ha detto che potremmo fornire basi eventualmente se ci fosse un robusto mandato internazionale, ma non parteciperemmo a un'azione militare in territorio libico, ma eventualmente solo a un'azione umanitaria. E quindi queste spaccature potrebbero costringere, se mai ci fosse la volontà, Londra, che sembra molto bellicosa sul fronte libico, e anche gli Stati Uniti, a un intervento probabilmente unilaterale a sostegno di una richiesta che già c'è stata di soccorsi militari da parte dei ribelli libici. Ecco, un pronostico in 30 secondi: quanto può durare questa crisi se non si interviene? Io credo che se lo stallo fra rivoltosi e Gheddafi potrebbe durare ancora parecchi giorni, ma alla lunga è più facile che sia Gheddafi ad avere le forze per riprendere la Cirenaica, se non ci saranno interventi esterni, di quelle che possono avere i ribelli piuttosto deboli e che impiegano dei volontari addestrati pochi giorni fa per il combattimento, di poter conquistare Tripoli. Saluto Gianandrea, grazie Gianandrea. Con un'altra notizia, arriva dal Venezuela notizia di un piano di pace, sembra messo a punto da Hugo Chavez, il presidente venezuelano. Quale sia la credibilità non lo sappiamo, ma sappiamo che Chavez ama essere sotto i riflettori. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Parliamo di un fiocco azzurro in casa di una rock band americana, Kings of Leon. Matthew Followay, l'abbiamo saputo ieri, sta per diventare papà di Kings of Leon e di Matthew. Dunque ascoltiamo Radioactive. When the road was called. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.